24 mattino di Alessandro Milan. 7:20, eccoci. Buongiorno cari ascoltatori, in diretta fino alle 9. Siamo qui con il biotestamento, il testamento biologico. Di questo parliamo nel nostro sondaggio. Dunque, questa legge discussa che è stata approvata alla Camera, ne parleremo, vi chiediamo cosa ne pensate di questa legge, siete favorevoli o contrari. Alle 8:30 è il tema del nostro sondaggio. Saluto anche Roberto Scaltritti, che mi guarda in regia e controlla che tutto vada a posto. Andrà tutto a posto. Il numero per i vostri messaggi è il 349-238-6666. L'intervista. Alle 8:23, ben ritrovati da Alessandro Milan. Saluto il magistrato antimafia di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, procuratore Gratteri, buongiorno. Buongiorno. Senta, intanto ci può dire quello che abbiamo letto poco fa sulle agenzie di un'operazione, una maxi operazione contro l'andrangheta che coinvolge arresti in Italia, Stati Uniti, Spagna, Olanda di narcotraffico? Quelle le posso dire molto poco, perché alle 10:30 ci sarà una conferenza stampa presieduta dal procuratore Pignatone, quindi non mi pare corretto anticipare prima. Le posso solo dire che si tratta di una grossissima operazione antidroga che interessa 6 stati del mondo. Per noi come Procura di Reggio Calabria non è una novità, perché ormai da decenni abbiamo una tradizione investigativa e rapporti internazionali con le polizie di mezzo mondo e le procure di mezzo mondo, proprio perché la 'ndrangheta è il leader nella importazione di cocaina in Europa. Senta, una notizia invece che a me ha inquietato, ha avuto poco spazio sui giornali, è questa: 12 persone, 12 condannati a 8 anni in appello, considerati 'ndranghetisti, vedremo il terzo grado di giudizio per la faida di San Luca, sono liberi da ieri per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Che succede, procuratore? Ma succede quello che ogni tanto succede, cioè a dire gli uffici giudiziari, in particolare la Corte d'Appello di Reggio Calabria, è quasi al collasso. L'urlo dei colleghi della Corte d'Appello di Reggio Calabria è stato inascoltato. E quindi ecco che ogni tanto succedono di queste cose. Ho capito, ma i cittadini devono pensare? Esatto, soprattutto dal punto di vista dell'immagine, cioè queste cose del genere allontanano la gente dalle istituzioni. Noi è inutile che poi andiamo a rincorrere per vedere, sì, può darsi che ci siano delle responsabilità o delle concause, eccetera, sarà poi altri organi a valutarlo. Però sta il fatto che il sistema giudiziario è inadeguato, non è proporzionato alla realtà criminale, e noi non possiamo ancora fare i processi con 70 faldoni in udienza o con l'ufficiale giudiziario che va a fare le notifiche. O modernizziamo il processo penale, o abbiamo il coraggio di informatizzare tutto, o abbiamo il coraggio di chiudere 40 tribunali in Italia per razionalizzare meglio le risorse, oppure continueremo a parlarci addosso e continueremo ciclicamente ogni 6-7 mesi a sentire di queste notizie. A commentare di queste notizie. Lei ha detto varie volte: mi capita di arrestare più volte la stessa persona, no? Io sì, arresto certo. Sempre le stesse persone, sì. E poi me le ritrovo. Anche quelli di stanotte. Molti di questi io li ho arrestati già più volte per lo stesso tipologia di reato, fatti condannare, ma siccome il sistema processuale e soprattutto il sistema detentivo consente degli sconti e delle facilitazioni a chi fa buone condotte nelle carceri, ma è ovvio che i capi mafia non litigheranno mai con uno della polizia penitenziaria. Se vogliono dare uno schiaffo ad uno della polizia penitenziaria, pagano un marocchino, pagano un ex comunitario con una tuta, un orologio Swatch, e l'ex comunitario perde i benefici, mentre il mafioso risulterà detenuto modello ed esce prima di tutti. Ma allora, vedendo tutto questo, cioè questo cortocircuito, uno dice: ma chi glielo fa fare? Eppure no, assolutamente, come chi glielo fa fare? Intanto ci sono migliaia di persone che credono in noi, intanto noi per migliaia di persone siamo l'ultima spiaggia, noi non possiamo mollare perché saremmo dei vigliacchi a mollare. Ciò che manca in Italia è soprattutto la coerenza tra quello che è il nostro ruolo e la nostra funzione, e manca questo rapporto. Un'ultima cosa, la gente non sa, si parla di faida di San Luca, che vuol dire? È vero che questa faida di San Luca nacque per uno scherzo di carnevale? Cioè, ufficialmente sì, formalmente sì, però è ovvio che già covava, cioè le faide le dovete immaginare come dei vulcani. Il vulcano sta anni spento, a un certo punto all'improvviso, anche dopo un secolo, esplode. Le faide escono dalle regole dell'Andrangheta, quelli che sono i codici dell'Andrangheta, perché c'è il sangue che scorre. Spesso ci si uccide tra parenti, tra cugini, che sono nei due blocchi contrapposti. E le guerre succedono per interessi, per il dominio del territorio. Poi c'è stata la scintilla del lancio di uova, una festa di carnevale. Alla festa di carnevale, da lì è nato tutto. Mi ricordo quel giorno sono state uccise 4 persone. Per un lancio di uova, ma è chiaro che quello fu il pretesto. Pretesto. Io intanto, procuratore, la ringrazio. Allora seguiremo alle 10.30 la conferenza stampa del procuratore Pignatone per questa maxi operazione contro l'Andrangheta di questa notte. Grazie a Nicola Gratteri, procuratore antimafia a Reggio Calabria. Ci fermiamo e dopo la pubblicità del metro allora parliamo di questa legge del biotestamento, il testamento biologico, una legge approvata alla Camera, passerà al Senato per l'ultima lettura, molto discussa da chi la critica dicendo è una legge che limita la libertà, è una legge che impone il sondino di Stato, cercheremo di capire cosa vuol dire, mentre chi è a favore di questa legge dice no, è una legge equilibrata, una legge che pone un argine alla magistratura che, come nel caso Englaro, ha deciso bisognava intervenire, stabilire dei paletti, perché altrimenti ci sono rischi di derive verso l'eutanasia. Di testamento biologico parliamo tra poco, 800 24 00 24, se volete intervenire. Allora vogliamo parlare di questa legge sul cosiddetto testamento biologico approvata alla Camera, non è ancora definitiva, ci sarà un ultimo passaggio al Senato, è il tema del nostro sondaggio di oggi. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Quello che vi chiediamo è se condividete i principi di questa legge. Ieri sui giornali è stato scritto molto di questi 8 articoli che sicuramente fanno discutere, fanno dibattere, riguardano tutti noi, riguardano le disposizioni che le persone possono dare per la propria vita oppure per il proprio fine vita, se volete. Allora, io voglio mettere in luce le critiche che sono state fatte così come sono lette dai giornali. Oggi c'è anche un'intervista interessante al ministro della cultura Galan, che prende le distanze da una legge fortemente voluta dalla sua maggioranza. Le critiche maggiori a questa legge da parte di chi la definisce una legge che limita le libertà dell'individuo sono queste. Intanto il fatto che il testamento biologico verrà ristretto a una categoria molto limitata di pazienti, quelli che sono in condizioni di stato vegetativo, circa 2.500 persone in Italia. Poi nel testamento non si possono indicare le terapie che non si vogliono, ma semmai quelle che si accettano, e nel biotestamento il punto più discusso anche è quello che non si può decidere di rinunciare all'idratazione e all'alimentazione assistita, tanto che i critici parlano, hanno introdotto il cosiddetto sondino di Stato. Tanto per essere chiari, con questa legge un caso come quello di Eluana Englaro non sarebbe stato più possibile, nel senso non sarebbe più stato possibile quella sentenza della magistratura che ha permesso il distacco del sondino. Tra l'altro ne saluto il padre Beppino Englaro, buongiorno e ben ritrovato Englaro. Buongiorno a voi. Voglio salutare anche il professor Francesco D'Agostino. Buongiorno professore, ben ritrovato. Buongiorno a lei. Lei è il presidente onorario del Comitato Nazionale di Bioetica, scrive spesso anche su Avvenire. Le posizioni vostre sono posizioni sicuramente differenti su questa legge che Beppino Englaro ha definito incostituzionale. Intanto, professor D'Agostino, oggi il ministro Galan in un'intervista a Repubblica dice è una legge che limita la libertà, io voglio decidere in merito alla mia vita, al destino dei miei giorni, pur rispettoso di tutti quelli che magari per fede, per convinzioni vogliono rimanere aggrappati alla vita, ma io sono con questa legge limitato invece nelle mie libertà. Secondo lei, professore, non è una legge che limita le libertà di alcuni? Guardi, l'errore di partenza sta nel pensare che questa legge riguardi in maniera generica tutti i cittadini. In realtà riguarda alcuni cittadini che si trovano in situazioni estreme, caratterizzate da patologie particolarmente gravi e nelle quali sicuramente la loro autonomia viene inevitabilmente ridotta e limitata, perché i pazienti in fin di vita, e a maggior ragione quelli in stato vegetativo, sono pazienti fragili, molte volte in stato d'abbandono, con enormi problemi economici, incapaci di recepire adeguate informazioni e di manifestare adeguatamente la volontà. Cominciamo a ragionare sul fatto che qui parliamo di situazioni d'eccezione. Se invece dilatiamo il discorso ai diritti fondamentali dei cittadini, ma io sono il primo a rivendicare l'autonomia e l'autodeterminazione, ma non bisogna ragionare in astratto, ragioniamo nella concretezza delle situazioni di fine vita. Quindi è proprio limitato a quei 2500 casi di cui si parla in Italia. Allora, perché sono i pazienti in assoluto più fragili e quelli che maggiormente corrono il rischio dell'abbandono e di essere eliminati, non per ragioni terapeutiche, perché è per sottrarli a sofferenze inenarrabili, ma perché sono diventati troppo costosi per le famiglie e per la società. Beh, il giudizio è molto molto, sì, spero, non lo so, non voglio mettere su questo piano che si riferisca, non si riferisca al caso di Eluana Englaro. Assolutamente no. Ma io non sono un interlocutore di Beppino Englaro, io sono uno studioso di bioetica, un professore universitario. Se voi volevate un autentico interlocutore di Beppino Englaro, dovevate chiamare i familiari di quei tanti pazienti in stato vegetativo che sono accuditi in casa e sono alimentati dai parenti. No, ma guarda, invece, professore, abbiamo chiamato lei, insomma, si può interloquire con chiunque nella maniera pacata, da diversi punti di vista. Certo, lei è di formazione un giurista, non è certamente la formazione di Beppino Englaro, che però questa vicenda la conosce molto bene. Certo, signor Englaro, lei perché l'ha vissuta anche e l'avete vissuta in famiglia per quanti giorni? Oltre 6.000 giorni, no? 6.233 giorni. Perché ha definito questa legge lei incostituzionale, definendo, essendo, dando subito anche una disponibilità a firmare per l'eventuale referendum? Già si parla di un referendum abrogativo di questa legge. Perché, guardi, non mi consente di esercitare le mie libertà, i miei diritti fondamentali come quando sono capace di intendere e di volere, perché noi abbiamo percepito questi pericoli. Il problema è questo, di non creare queste situazioni, perché io voglio essere in qualsiasi momento capace di dire sì o no all'offerta terapeutica, perché la Costituzione italiana non lascia discriminare le persone per la loro condizione. Quindi, capace di intendere e di volere, posso dire sì o no a qualsiasi tipo di terapia, dalla più banale alla salvavita. Per il fatto che poi improvvisamente non mi trovo in questo, non perdo queste libertà e questi diritti fondamentali. E la sentenza del 16 ottobre del 2007 dice chiaro che questa autodeterminazione terapeutica non può incontrare un limite, anche se ne consegue la morte, e non ha niente a che vedere con l'eutanasia. Questo è chiaro. Questa è la risposta che è stata data dalla Corte Suprema di Cassazione come principi di diritto in uno Stato di diritto per delle persone che poi si trovano in questa situazione. Quindi io devo essere in grado di esercitare questi diritti attraverso, è chiaro, dando delle disposizioni anticipate di trattamento e avendo nominato un fiduciario nella figura dell'amministratore di sostegno o di un curatore speciale. Cioè, non voglio trovarmi scoperto neanche un minuto nel dialogo medico-paziente una volta che è stata superata la prima fase di emergenza. Senta. Stabilita. Sì, le volevo chiedere questo, però lei ieri anche in una serie di interviste ha definito appunto incostituzionale. Perché incostituzionale sul punto? Cioè, voglio dire, perché non mi consente in tempi reali. Guardi, io per l'Eluana noi avevamo approfondito in casa, adesso l'ho approfondito dentro la società, e la risposta in questa sentenza è chiara: nessuno può disporre, io sono sovrano nel disporre della mia salute. A proposito, il medico o lo Stato attraverso una legge dirmi no. A proposito di questa sentenza, lei ha parlato di vendetta nei confronti dei magistrati. In realtà ieri avevamo anche l'onorevole Paola Binetti qui a parlare e ci ha detto, ed è abbastanza certificato anche da tutti gli esponenti che hanno voluto questa legge, è stata fatta anche appositamente proprio per evitare una deriva da parte della magistratura, nel senso che la gente bussa alle porte dei magistrati in assenza di una legge. Proprio per questo è stata fatta una legge, e il Parlamento in questo ha recuperato la sua sovranità dal punto di vista di legiferare su un tema così importante, per evitare che la gente, come nel suo caso, bussi alle porte della magistratura. Lei questa la definisce una vendetta oppure un dovere da parte del Parlamento di... No, è un conflitto conflitto di poteri, è un conflitto di poteri, perché questa sentenza lascia chiaramente al Parlamento riappropriarsi del diritto dell'ultima parola e di pronunciarsi in modo chiaro sui temi eticamente controversi, ma solo che in questo caso è proprio contro questa sentenza, perché questa sentenza stabilisce questi principi di diritto, sono 60 pagine, basta leggere. Quindi attraverso questa sentenza io so che anche se sono nella condizione non più capace di intendere e di volere, attraverso queste figure che ho detto un momento fa, posso esercitare in qualsiasi momento e dire un semplice no grazie alla questo però, perché è una violenza inaudita questa. Vedi, il famoso stato vegetativo è un esito non voluto di un tentativo di rianimazione non riuscito. Certo, ci pone davanti a un'evoluzione tecnologica della morte. È questo da dire. Quindi noi avevamo percepito questi pericoli, volevamo sapere quando potevamo dire medicina, perché non sanno fermarsi, creano delle situazioni che per noi erano chiare, peggiori della morte, e noi volevamo evitare questo, e con questa sentenza noi siamo in grado. Però guardi, questa sentenza è superata dalla legge. Allora quello che lei definisce uno stato della vita creato per cercare di rianimare una persona è quello che il professor Veronesi definisce, credo, professor D'Agostino mi corregga, lo stato di vita artificiale, cioè si crea uno stato di vita artificiale, parole del professor Veronesi, dalle quali non si riesce a uscire, professor D'Agostino. Allora, non è vero che non si riesce ad uscire dallo stato vegetativo, perché abbiamo numerosi casi, anche se non numerosissimi, di persone che si liberano dallo stato vegetativo. Però ci sono alcuni casi no. Proprio l'anno in cui morì Eluana, in Polonia, un ragazzo uscì dallo stato vegetativo in cui stava da 18 anni. Quindi questi casi ci sono. Seconda considerazione, la neurologia non è attualmente in grado di diagnosticare l'irreversibilità dello stato vegetativo, cioè di diagnosticare l'impossibilità di riconquistare la coscienza. E infatti l'espressione correttissima che tutti usiamo è stato vegetativo persistente, non stato vegetativo irreversibile. Allora, finché c'è la possibilità di uscire dallo stato vegetativo, il malato ha tutti i suoi diritti costituzionali di essere curato e non di essere considerato in una situazione peggiore della morte. Perché se fosse vero che lo stato vegetativo è peggiore della morte, dovremmo sopprimere tutti i pazienti in stato vegetativo, sia che abbiano fatto il testamento biologico che non l'abbiano fatto. Però su questo punto da cui voglio ripartire proprio da lei, professor D'Agostino, dopo le informazioni sul traffico, è perché lei dice è la questione dell'alimentazione e idratazione che qualcuno definisce artificiale o idratazione assistita, che per quello che è stabilito in questa legge, per alcune comunità scientifiche, è un atto medico. Per altri no, se è un atto medico è rifiutabile come tutti gli atti medici, perché la Costituzione ci dice che sono rifiutabili. Se non è considerato un atto medico come viene definito in questa legge, allora appunto non è rifiutabile, e secondo i critici di questa legge ecco che si crea quello che viene definito il sondino di Stato, cioè l'obbligo a mantenere una cosa che molti vorrebbero rifiutare. Io soy o blanco o negro. Gris, no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, professor D'Agostino, alla domanda che ho posto, e aggiungo anche questo, lei ha detto all'inizio che questa legge riguarda un ristretto campo di cittadini che si trovano in situazioni estreme, però in realtà riguarda tutti noi, perché tutti noi potremmo trovarci paradossalmente in quella situazione in seguito a un evento della vita che può capitare. Attenzione, la legge non proibisce ai cittadini di firmare un testamento biologico. Sì, però impedisce di chiedere alcune cose, per esempio. Impedisce di chiedere atti di eutanasia. Tutto qui il discorso. Lei dice, torniamo all'alimentazione. A parte l'immenso valore simbolico di dare da mangiare e di dare da bere, che non è mai stato ritenuto un compito medico, ma il più alto compito di solidarietà interpersonale verso i malati, ma ci sono moltissimi malati in stato vegetativo che sono accuditi in casa e sono alimentati dai familiari. Mi appello al buonsenso, perché dobbiamo arrivare a dilatare la categoria atto medico anche per atti di sostegno vitale? Con questo discorso, se il medico dà il latte artificiale ad un neonato che ha problemi gastrici, l'allattamento di quel neonato con il biberon diventerebbe un atto medico. Ecco, non estremizziamo il discorso. Questo no, il problema è che secondo molti è limitante, non nei confronti di chi vuole accudire e accudisce, sono tanti che accudiscono con amore, passione, dedizione le persone, che, ma è limitante per chi quella situazione non la vuole e si trova, ma non so Beppino Englaro, forse sbaglio, e si trova invece costretto a non poter uscire da quella situazione, no? È così, questa è la critica che fa lei, Englaro, alla... Esattamente, prima di tutto per me, io sono in grado adesso, prima avevo solo percepito i pericoli, adesso ho le prove di questi pericoli, sono in grado di non lasciarmi portare dalla medicina in questa condizione, sempre e semplicemente attraverso la nostra Costituzione, gli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e l'articolo 6 della Convenzione di Oviedo, dove dice chiaramente, allorquando secondo la legge un maggiorenne a causa di un handicap mentale o di una malattia o per un motivo similare non ha la capacità di dare un consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante o di altra autorità o di un organo disegnato dalla legge, che è legge la Convenzione di Oviedo oramai. E questo da dire, io voglio che non mi si crei questa situazione ed eventualmente a chi gliel'ha creata che se ne possa uscire, che se ne possa uscire. No, ma... Quindi è chiaro che attraverso questo non si crea, perché questa vicenda di Luana non va contro però nessuno, il professor D'Agostino, ma è per qualcuno. Sì, però il professor D'Agostino e gli indica la strada anche per non crearla. Però Englaro, il professor D'Agostino dice che quello Englaro, il professor D'Agostino dice che quello non è un atto medico, quello del dare da bere, del dare da mangiare, del mantenere in vita una persona, perché guardi, il professor Agostino dovrebbe sapere che nessuna legge mi può obbligare a alimentarmi anche naturalmente, non solo artificialmente. Su, questo dovrebbe essere palese anche per un cittadino qualunque, non occorre essere professori di filosofia del diritto e studiosi per capire una cosa del genere. Ecco. È questo da dire, è molto semplice. E questa è contro questa sentenza per i loro conflitti di potere, perché io credo che l'ha detto sempre, l'ha detto il primo presidente della Corte di Cassazione di Milano. Ma lei dice è contro questa sentenza, invece i politici dicono è stata fatta una legge proprio per evitare. Questo guardi che l'hanno ammesso, per evitare altre tipi di sentenze. Ma certo, per questo poi la raccolta di firme per un eventuale referendum è una scelta legittima che si può fare. Io vorrei sentire Veronica da Roma, ci ha chiamato all'800 24 00 24. Veronica, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Innanzitutto saluto al signor Englaro e al signor D'Agostino. La mia esperienza è, io ho un figlio di 4 anni, questo bambino era un bambino con dei problemi, attacchi epilettici, è stato operato e per un errore medico è finito in coma irreversibile. E riguardo alle terapie, è stato subito messo il respiratore, e però poi i medici si sono accorti che la situazione era talmente tanto grave perché il cervello era stato e ci hanno chiesto di fermare praticamente i farmaci. Sì. Però il respiratore no. Non hanno dato il consenso e a un certo punto io ho chiesto, dico scusate, col farmaco quanto poteva vivere? Dice anche un anno, dico senza farmaci? Dice 4-5 giorni perché il coma è talmente esteso e il cervello è devastato, dice più di là non va. Dico vabbè, ma allora staccate lo respiratore, perché lo tenete? Dice signora, purtroppo così è la legge, quindi io sono stata praticamente 5 giorni fuori dalla riunione aspettando che mio figlio morisse da solo. E non è un bello spettacolo vedere il proprio figlio con le coperte termiche perché si freddava, il turbante in testa perché si freddava la testa. E dopo 4 giorni il bambino è morto da solo. E uno si domanda, dice, bene, allora rimettete i farmaci, no? Se c'è una speranza, se pure tenete così, rimettete. Dice, no, se è inutile perché il bambino è morto. Quindi a questo punto io ho detto, uno si chiede, no? Che succede? I farmaci no, però il respiratore sì. E me l'hanno spiegata che guarda caso se fosse stato un donatore il respiratore sarebbe stato tolto molto velocemente, insomma. No, guardi, io da questa sua vicenda molto drammatica, lei che ne pensa, cioè di questa legge nello specifico? Troviamoci i genitori, io capisco benissimo, sì. Signore Englaro, quando dice un ragazzo si è ripreso dopo 18 anni, sì. si sarà pure ripreso, ma bisogna vedere pure come si è ripreso, perché guardi... Beh, che c'entra, guardi signora, su questo... Scusi, ma può dirmi, se lei vivesse in un paese civile, come non è l'Italia, dove c'è il servizio sanitario nazionale che funziona, allora io le persone in coma vegetativo forse ci potrei anche pensare a tenerle in vita. Ma in questo sistema dove non pensate neanche alle persone che sono vive, perché io per avere la fisioterapia per mio figlio ho dovuto, mi dico quanto, lottare e poi l'ho dovuta pagare io. Perché sono questo è un tema, guardi, questo è un tema molto interessante sul fatto, dice, l'abbandono in alcune situazioni di questo genere, come ci diceva il professor D'Agostino, cioè l'abbandono di queste situazioni porta anche a scelte a volte dettate dalla disperazione. Non ci fosse questo abbandono, però quella, non so, la vicenda di Emanuela Englaro è una vicenda molto diversa, cioè la vicenda di un papà che ha lottato perché venisse certificata la volontà della figlia, ricostruita ovviamente successivamente all'incidente, perché non venissero più fatte determinate terapie. Questo in estrema sintesi è la storia di Eluana Englaro. Nicola da Belluno, buongiorno. Nicola, è caduta la linea con Nicola. Paola da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Milani, ai suoi ospiti. Ma senta, io ho 40 anni e sono un malato cronico, per me non c'è cura ma solo una terapia che funziona finché il fisico non comincerà a risentire dei farmaci che prendo. Con tutto il rispetto, sono credente, sono cattolica, con tutto il rispetto per il dottore, sì. Io credo che non si debba obbligare una persona a vivere anche quando non lo vuole, ci deve essere una dignità nella vita come una dignità nella morte. Questa però è una cosa diversa, cioè lei cosa mi sta dicendo? Lei per esempio... Io sto dicendo che per tutta la mia vita sono responsabile delle scelte che devo fare. Per vivere secondo le leggi, per vivere secondo il rispetto degli altri. Le posso fare una domanda diretta? Perché oggi a questo risponde anche il ministro Galan. Lei è favorevole o le scandalizza sentir parlare della parola eutanasia? No, perché non mi scandalizza per niente, anzi, probabilmente così costringono persone che sanno già che la propria malattia arriverà a un punto degenerativo tale che si arriva ad essere vegetali a suicidarsi prima, perché non c'è modo di smettere di patire dopo. E non mi vengano a dire che l'alimentazione non è un atto medico, è un atto medico. Vabbè. Io da sola il sondino non me lo so mettere. Questa però è una diatriba, diciamo, scientifica. Molte società scientifiche dicono in un modo, devo dire la maggior parte dicono un atto medico, altre no, e sono posizioni. Il professor D'Agostino invece ci ha spiegato perché dal suo punto di vista, dal punto di vista medico-giuridico, non è un atto medico. Professor D'Agostino, perché la questione dell'eutanasia è così spaventa in Italia? Oggi il ministro Galan ha fatto questa intervista dicendo: io non salto sulla sedia davanti a questa parola. E perché, le chiedo anche, perché molta gente, leggendo quello che c'è sui giornali, si sente limitata da questa legge nella propria libertà di scelta. Mi dica perché è così diffusa questa sensazione, secondo lei? Dietro il dibattito sul testamento biologico c'è la questione dell'eutanasia, e la nuova legge mi sta bene proprio perché fin dall'articolo 1 dice di no all'eutanasia. Io capisco quelli che dicono io voglio essere responsabile della mia vita e della mia morte, ma attenzione, qui non parliamo del rispetto di scelte individuali, qui parliamo di una legge che potrebbe incidere sul diritto alla salute di tutti i cittadini e sull'assistenza sanitaria. In una società in cui diventiamo sempre più vecchi e in cui sta crollando l'assistenza familiare a causa del crollo demografico, noi corriamo il rischio di affidare l'intera categoria di cittadini fragili, deboli, anziani, senza soldi, a pratiche eutanasiche, mascherate ipocritamente attraverso pretesi testamenti biologici che queste stesse persone vengono indotte a firmare quando vengono accolti in ospedale. È quello che già succede in altri paesi. Ma perché indotte? Cioè io potrei farlo adesso. Allora, le faccio un esempio. Nell'ospedale Arrowsmith di Londra, che è uno dei migliori ospedali per gli anziani, appena un anziano chiede di essere ricoverato, gli sottopongono subito un testamento biologico per la firma. Intimidiscono il malato facendogli pensare che se lui comincia a rompere le scatole, a dire di no, a tirarsi fuori da certe prassi consolidate, viene considerato un malato sgradito. E i poveri vecchietti, pur di farsi ricoverare lì, firmano tutto quello che gli si vuole far firmare. Denunciamolo questo ospedale, io non conosco questa situazione. In ogni caso, ecco, il momento è che mi devo fermare, insomma il tema è molto dibattuto, al limite ci torneremo perché è molto molto sentito, poi riguarda molto più da vicino tutti noi che possiamo trovarci in quella situazione di quanto si possa pensare. Ringrazio Beppino Englaro, ringrazio il professor Francesco D'Agostino, con Alessandro Longoni in redazione, Roberto Scaltritti in regia, l'appuntamento è rinnovato a domattina alle 7:20.